Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sapete, amo dire buon fine di serata se ci ascoltate in replica alle 20:45. L'educazione e il piacere innanzitutto. Allora, la mail unabusoalgiorno@radio24.it, vi ricordo anche il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, oggi è martedì 23 giugno e una rappresentanza di un centinaio di ciechi e ipovedenti, possono essere di più, possono essere di meno, non è quello che conta, però hanno deciso di stazionare, di cominciare a stazionare, quindi un loro presidio, di fronte al Parlamento, a Piazza Colonna, a Roma, di fronte alla sede, diciamo, del potere politico italiano, per gridare le ragioni per le quali continuano a notare discriminazioni in punti focali della vita sociale italiana, alla quale appartengono a pieno diritto e titolo. Sono essenzialmente quattro queste ragioni, motivi per i quali hanno deciso di continuare a proseguire così il loro impegno a favore di tutti i ciechi, di tutti gli ipovedenti. Noi siamo a fianco a queste persone, ovviamente, e lo facciamo come? Lo facciamo parlando di questa singolare iniziativa con Anita Ventura, che è presidente dell'Unione Italiana Ciechi per la Regione Lazio. Buongiorno, dottoressa Ventura. Buongiorno. E con il presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, già più volte nostro ospite, il simpatico professor Tommaso Daniele. Buongiorno. Buongiorno, grazie per il simpatico. Lo merita tutto. Allora, dottoressa Ventura, perché avete deciso oggi di iniziare una nuova forma di lotta e mobilitazione, come si diceva un tempo? Benissimo, noi siamo qui in piazza oggi di fronte a Palazzo Chigi, siamo più di un centinaio tra ciechi, ipovedenti, oltre ai nostri accompagnatori, chiaramente. E siamo qui per manifestare pacificamente. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo che la Presidenza del Consiglio, che il nostro Premier, finalmente risponda alle tante lettere, alle tante istanze inviate dal nostro Presidente nazionale. E finora abbiamo avuto come risposta soltanto il silenzio, soltanto la disattenzione, ma noi siamo qui a invocare i nostri diritti, che sono il diritto al servizio civile per i disabili gravi. E come spiegherà il Presidente, ha spiegato tante volte il Presidente, ci sono delle leggi che la Commissione deliberante ha chiesto di portare in aula e il Governo ha detto no. Abbiamo poi tanti problemi sull'integrazione scolastica, perché qui è vero che c'è la crisi economica, ma è anche vero che non deve pesare sui disabili, e vogliamo essere riconosciuti come patronati, invece no, invece ci tagliano i contributi, invece dobbiamo pagare la crisi, e questi contributi poi sono veramente, se mi posso permettere, una somma ridicola rispetto all'enorme volume del bilancio statale. Quindi noi oggi siamo qui semplicemente per ricordare che siamo cittadini a tutti gli effetti, che abbiamo delegato le persone che stanno in questo palazzo a governarci, e che però non li abbiamo delegati a disattendere i nostri diritti. Noi siamo qui a far valere i nostri diritti, che sono diritti sanciti dalla Costituzione, sono sostanzialmente diritti civili. Bene. Il servizio civile è fondamentale, perché le persone cieche, anziane o con pluriminorazione hanno bisogno di essere accompagnate. C'è gente che non sa neanche come andarsi a comprare un litro di latte, ma forse questi nostri governanti neanche lo immaginano. Ecco, io direi che abbiamo sentito il calore con il quale la dottoressa Ventura ha spiegato le ragioni, e direi che non si possono non sposare. Del comunicato stampa che ci è stato inviato in redazione mi ha colpito poi anche la frase finale, quando si legge, e leggo testualmente a mia volta: i ciechi non hanno mai chiesto e non chiedono la luna, ma ora hanno bisogno di risposte e di giustizia. Presidente Daniele, ci vuole spiegare il senso di questa frase, anche alla luce di quello che state facendo oggi, che continuerete a fare nei prossimi giorni? Certo, vede, come abbiamo scritto nella lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, noi ci rendiamo conto che questo è un periodo critico per il nostro paese, per il pianeta. Però le cose che chiediamo adesso le stiamo chiedendo da 4 anni e abbiamo sempre ricevuto una montagna di no. E noi non possiamo più accettare che i giovani del servizio civile vengano utilizzati dagli amministratori comunali per andare a comprare le sigarette oppure i giornali. Chiediamo che i progetti riservati ai disabili gravi abbiano la precedenza nella graduatoria. Mi sembra una richiesta che a costo zero. Sì, ma infatti Stato... quello che voi sottolineate è proprio questa cosa molto molto interessante, cioè le riforme che voi proponete sono riforme a costo zero, cioè non avrebbero, forse salvo nella parte in cui chiedete il recupero dei tagli, dei contributi statali, non avrebbero ricadute economiche per lo Stato. Assolutamente, 3 richieste sono a costo zero, la quarta... che il ripristino dei contributi, lo Stato ci ha dato il compito di fare certe cose che non riusciva a fare da solo, ci ha dato il compito di produrre i libri in braille a caratteri ingranditi in formato elettronico, ci ha dato il compito di produrre le cartine a rilievo per lo studio della geografia, le figure per lo studio della geometria, ci ha dato il compito di addestrare i ragazzi all'uso dell'informatica, del computer, ci ha dato il compito di fare prevenzione della cecità. Per questi compiti ha stanziato dei contributi che risalgono ormai a 10 anni fa, che hanno perduto il loro potere di acquisto. Noi non abbiamo chiesto aumenti perché siamo persone responsabili, però chiediamo che almeno ci siano dati nella misura stabilita alle origini. Assolutamente sì. Allora, io invito tutti i radioascoltatori a notare insieme a me la pacatezza con la quale tanto la dottoressa Ventura quanto il presidente dell'Unione Italiana Cechi portano avanti le loro riflessioni. In un mondo in cui si grida, direi che va dato atto della serietà e della compostezza. Dottoressa Ventura, l'integrazione scolastica mi sta molto a cuore, anche perché ho 2 figli, che, devo dire, sensibilizzo ogni giorno alle difficoltà che si incontrano quando si trovano di fronte a loro dei professori che non sono così avveduti e così corretti nei problemi dell'integrazione. Ed allora le chiedo, nel Lazio, regione che lei rappresenta, quali passi avanti sono stati fatti o quali passi indietro, invece, se ci sono stati appunto effettuati? Ma guardi, io non credo che la situazione del Lazio sia diversa da tantissime altre situazioni in Italia. Forse per alcuni problemi, cioè il rapporto degli insegnanti di sostegno, stiamo forse un pochino meglio di altre regioni, però i problemi sono a monte. I problemi riguardano la formazione del personale docente rispetto alla disabilità, all'handicap. E quando si parla di formazione di tutti, sia dei cosiddetti curricolari, cioè gli insegnanti delle discipline, ma anche degli insegnanti di sostegno che non sempre arrivano a fianco ai loro allievi con una formazione adeguata, salvo poi prendersi tutte le critiche e tutto ciò che ne deriva di negativo da parte delle famiglie, delle associazioni, di tutti. Insomma, quindi c'è un grosso problema relativo alla formazione. E io credo che il Ministero debba decidersi a fare dei piani formativi veramente validi, a investire sulla formazione, perché insomma non sono soldi che vanno ad essere persi. Infatti, sono investimenti che creano risorse per il presente e per il futuro. Assolutamente d'accordo con lei. Io, tra le altre cose, radioascoltatori, dico che tra alcuni giorni affronteremo un altro tema molto importante nell'integrazione scolastica, che è quello della dislessia, e sentirete che anche il problema della formazione del corpo docente è enorme. Io ringrazio la dottoressa Ventura per il suo intervento, lascio la parola conclusiva al professor Daniele, al quale chiedo quanto tempo ancora stazionerete davanti a Palazzo Chigi. Ma stazioneremo fino a quando non avremo delle risposte, perché abbiamo deciso che la manifestazione sia a tempo indeterminato, proprio per essere sempre presenti abbiamo ridotto il numero dei partecipanti, un centinaio al giorno, questo ci consentirà di andare avanti fino a che non avremo delle risposte. E quindi questo, come dire, è una forma di protesta e sensibilizzazione pacifica che Radio 24 continuerà a seguire, perché è il nostro compito, è la nostra missione, oserei dire, di questa trasmissione. Ringrazio il professor Daniele per il suo intervento, ci sentiremo quindi prossimamente. Dico grazie anche a Carmelo Lauricella in regia e a Laura Faggin in redazione, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.